Ma non si può scrivere ste notizie in maiuscolo, Dio cane! E non si riesce a capire un cazzo! Dio boia, de Dio, senza le maiuscole, senza i punti! Aspetta un secondo, va là, Dio cane! Perché filosofia non ce le sei del Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la Bandoia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in gis, se più facile. Studiare Omero con un degli se più facile. Perché a fare italiano non ci stanno dalle robe? Ma perché come bidello non ci sta Simon Le Bombe? Ma perché non c'è Bruce Springsteen a insegnarci un po' di box? Cioè, ma perché a fare ginnastica non ci sta Samantha Fox? Studiare in jeans, c'è più facile. Studiare Ariosto con un video game. Non ce le insegna il Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la Bandoia? E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna? Studiare in G, se più facile. Studiare Omero con un degli se più facile. Paninari della linguistica. Adesso per punizione ti farò sentire un pezzo di Samantha Fox. Io non sapevo chi fosse Samantha Fox. Sarà mica perché quando cantava lei io sì e no ero nata. Giovincella. Ecco. Sei proprio una giovanotta. No, c'ero. Sì. Mi ricordi i ragazzi della terza C, per cui teoricamente dovrei ricordarmi anche di Samantha Fox. Ecco. Benvenuti all'ennesima puntata dell'Accademia dell'annesima, perché qua ecco. È veramente duro e difficile a volte avere a che fare con la nostra regia, che non è analogica e atavica. Più che altro. Però sì. Le vogliamo tanto bene, quindi. Ma non apatica. Non è no, esatto. Esatto. Batte mica la fiacca qui, eh. Se arriva il Kumenda, arriva. Comunque io ora oddio sta per arrivare l'incubo. Non per essere ripetitiva. Io lo sento. Io lo sapevo. Ma cosa capirete non anche posso voi più farne amici? A meno. E sì, sappi che finché si parlerà di punteggiatura questa... avrai la sigla dei ragazzi della terza C e fisarmonica la polca della punteggiatura. Punto e virgola. Allora io vi faccio tutta la puntata con il mio solito accento madrelingua, che ovviamente. Quello lì è. No, mi sembra di essere all'Obby Hall quando fanno la festa della birra, tipo. È vero, perché poi sembra una balena. Vi ricordate il banchino di Radio Wombat quando siamo andati all'Obby Hall alla vetrina? Sì. Il banchino del Wombat, poco prima che finisse la vetrina, è scappato dal lobby. Dopo aver ovviamente chiacchierato con tutti i partecipanti della vetrina, un sacco di cose interessanti per andare qui. Esatto. C'era un gruppo meraviglioso. Sotto braccio e danze a gogo. Birrini, e c'era questo gruppo, te lo ricordi? Quei meravigliosi. Quei calzettoni. Tirolesi che facevano le cover in stile tirolese. Coi baffi finti. Una cosa. E poi ho scoperto che erano tedeschi per davvero. Li ho sentiti interagire sì. tra loro bavaresi, li ho sentiti interagire ma tra di loro. Fingevano come Fantozzi quando si presentano. Fantozzi lei? Vabbè, e insomma, questo per dirvi che io la lascio davvero un pochino, se ti dà okay. un certo tono anche nel... Nel rendere più autorevole tutto quello che vi racconteremo stasera. In quanti sarete ad ascoltarci stasera? Tantissimi come la volta milioni scorsa. Milioni e milioni. Allora, visto che è un pochino che non lo diciamo e visto che c'è questo sottofondo davvero molto fieristico, ecco. I nostri contatti. Brava. Non me li ricordo. twitter.com/radiowombat.fi facebook.com/radio-wombat-firenze La mail, bellissima, la nostra posta wombat@insiberia.net e ovviamente ci starete ascoltando da lì per forza, ma il nostro sito che è www.radiowombat.noblogs.org. Io. Bene. E che dire? Nient'altro se non iniziare subito a parlare del nostro il nostro argomentone. Di cosa ci parli oggi, cara? Non avremmo mai potuto iniziare dal punto. Perché è troppo definitivo. C'è una gerarchia esatto, da rispettare. Esatto. Partiamo da facciamo un passettino indietro e partiamo dalla virgola. Vi terremo compagnia. Maledetto. Mi sente? Yes. Abbiamo un piccolo problema con questo cavettino che non... Dio cavetto. Voglio chiamare Germano Mosconi. Santo santissimo. Germano Mosconi. Grazie. Perché accade tutto ciò? Perché siamo stati maledetti. Quelli di Controradio ci hanno fatto la macumba. Oppure il signore. Dopo tutto. Secondo me è stato la lui. Prima e anche la seconda che hai detto. Ecco. Che sono ci forse sta. La stessa cosa. Polesse. Ma va bene, ci parli un po'. Parliamo della virgola. Allora, puntata 1, siccome abbiamo tantissime cose da dirvi, su tutto l'uso cenno storico e le differenti tipologie di utilizzo della virgola nella lingua italiana e soprattutto nell'ambito scritto e più letterario. Poi vi faremo un'altra bella puntatina su sempre l'uso della virgola, in particolar modo però la virgola legata a un ambito molto particolare di cui non vi diciamo nulla oggi. Ecco perché vi dovete sempre aspettare anche un pochino le sorpresine. Sì. Ecco, una musica mi ero sorpresa. Di mettertela al loop. Allora, partiamo in questo viaggio. La virgola. Ah. Etimo, dal latino virgula. Piccola verga, e non è quella che scrivigliamo sulle manine, non è il bastoncino verde di generalmente molto flessibile che vi viene dato sui palmi delle mani e sui nocchi. E sui nocchini. No, è un segno di interpunzione che è costituito, dai, davvero, da una linea curva con la testa a livello basso della riga. Quando esatto. si cerca di descrivere qualcosa di banale, divisivo, sì. Si cade sempre in questo vortice di cose di che sembrano scontate. Quasi a caso. Secondo voi la virgola ha una sola funzione? No. Dai, non stiamo qua a scherzare. Sarebbe troppo facile. Infatti. La puntata sarebbe già finita così. Infatti. No. Cioè, diversi usi. Indica una pausa breve e una sospensione, un'interruzione che è considerata più debole rispetto a quelle che vengono rappresentate dal punto e virgola e dal punto. Quindi siamo all'interno dell'ambito della punteggiatura, al suo interno, e stiamo dando un ordine di crescente, di forza del segno. Ok, quindi partiamo dalla virgola, poi però vediamo a nostra discrezione se fare prima il punto e virgola o il punto e basta. Sì, vedremo. Ecco. Surprise. Ah, è il caso di citare la nostra Garavelli. Per forza, e come fai a non metterla in ballo? Sì, davvero. La virgola ha anche una funzione forte, ovvero una funzione che determina il cambiamento radicale del senso degli enunciati. Ve l'abbiamo detto forse anche la volta scorsa. Esatto. Vivo e vegeto. Esatto. Sì. Vivo, virgola e vegeto. La situazione cambia completamente. Direi. E la sua presenza quindi è discriminante per distinguere i ruoli sintattici all'interno della frase. La Treccani, l'enciclopedia, fa l'esempio di Franco. Chiaro. Franco porta i documenti rispetto a Franco, virgola, sentite anche l'intonazione come cambia, porta i documenti, quindi un vocativo contro una frase oggettiva normale, come dire, una frase proprio semplicissima. Bene, questo è quello che dovete sapere per attaccare bottone quando andate nei pabbettini a Firenze con le pischelle, i pischelli, così. Ma lo sai a cosa serve la virgola? Tutto. Se poi volete passare al grado successivo, capite a me, dovreste anche snocciolare qualche cenno storico, almeno per una limonata. Alla grande. Ecco, io intanto, scusate, bevo... Sorseggi. Sì, bevo il mio Prolase. Glielo diciamo qual è il nostro segreto del perché siamo così... Magnesio e potassio. Ecco. Magnesio e potassio e... Supremissimo. Esatto, mi raccomando, più supremo possibile. Allora, questi tipi di... anzi, facciamo un passo indietro. Mondo latino, greco antico, quindi lustri fa, esistevano le tre teseis o positure. Ok, positure. Sono tre tipi di punto che servivano a indicare le diverse parti del discorso, ponendosi ad altezze diverse sulla riga. Erano tre. La prima positura è l'antesignana della virgola, che viene identificata in greco con il termine ipostigme e in latino invece la subdistinzio. Ah, che incubo! Hai capito? E serviva a indicare la parte minore del discorso, quella forse che poteva essere omessa senza compromettere il senso della frase. Anche se ricordiamoci che la lingua latina in particolar modo ha la declinazione, per cui tutti gli elementi di significato vengono portati dai casi. Questa sezione minore del discorso si chiamava comma. Non a caso gli inglesi e anche gli spagnoli, che sono a quanto pare più dotti di noi, mentre noi invece ci rifacciamo più al latino medievale, indicano nella loro lingua, quindi nello spagnolo e nell'inglese, la virgola con il termine comma per gli spagnoli, comma per gli inglesi e comma con... due M per gli inglesi, comma e comma con un M solo per gli spagnoli. Ce l'ho fatta. Brava. È tutto giusto. È dura. Io controllo affinché sia tutto dura, perfetto. Ecco. Oh, perché fa freddo. Sì. E allora, sai... Sì. Polase. Bevi un po' di Polase, che il magnesio e il potassio vanno assunti assieme. Esatto. Si metabolizzano meglio, soprattutto probabilmente. Soprattutto a quest'ora. Certo. Bene. Per dormire meglio. Ma andiamo avanti. Di tempi andati. Che bei tempi. Quando? Delle grandi epoche. Tra il VII e l'VIII secolo. Oh. Sì, con l'introduzione della scrittura a caratteri minuscoli. Fece la sua prima apparizione la virgola. Ah, che bei tempi. Essa. Era un apice semplicemente sovrastante un punto. Cioè avevamo l'elemento punto, diciamo, sul rigo e ovviamente l'apice in alto, se non era un pedice. Per raffigurare la cosiddetta subdistinzio, che sempre in questi secoli, madonna e palle ragazzi, fu detta distinzio sospensiva. È un termine che viene utilizzato nella linguistica non propriamente moderna, diciamo, perché la indica Novati in un saggio del 1909. Il caro Boccaccio parla di virgola nella oggi non ce la faccio, dell'hamiltoniano. Nell'autografo quindi hamiltoniano del Decameron. E la virgola è seguita da una... cioè è quell'elemento che è seguito da un'iniziale parola, può diventare poi maiuscola o minuscola, ed è rappresentata con una barra obliqua. Quindi come una... è un simbolo antico che ricorda quasi la, diciamo, il periodo che viene spezzato, ma come posizionamento all'interno della frase innovativo, perché ricorda la foggia moderna della virgola bassa, quindi a pedice sul rigo. E, l'evoluzione di questo aspetto grafico da linea dritta, quindi barra, a curva, è data dal lato dello scrivere, che ce lo racconta Domenico Maria Manni nelle Lezioni di Lingua Toscana, che è un saggio, anche lui, di qualche anno fa, del 1737, che dice che con l'andare del tempo si tolse la natia rigidezza e si abbassò e si incurvò, portata dal voltare, che nello scrivere fa il nostro polso. Quindi hai capito? È un elemento... tutto attorno a questa zona, eh? Siamo sempre lì. Sì. Vabbè. Ma anche insomma per rivangare quel concetto che dicevamo nella puntata scorsa del fatto che la virgola è legata non a una sospensione del fiato per respirare, ma è determinante nel senso e nella sintassi della frase, in particolar modo della frase scritta, perché se noi la dobbiamo interpretare leggendola, ok, è vero, abbiamo i vari elementi di senso, sì, nella ci frase, sono però alcuni aspetti si possono sottolineare con l'aspetto dell'intonazione, ma tutto il resto, esatto, lo fa lei. Esatto. Con l'avvento della stampa, poi ho finito, tra un pochino vi facciamo sentire un pezzo. Sì, con l'avvento, sì, della stampa, la diffusione della virgola, che ha una forma appunto moderna, quindi dopo il 1737, riceve un impulso decisivo da parte di Aldo Manuzio, ovviamente, all'interno dell'edizione veneziana d'Etna di Pietro Bembo. E ha un nuovo tondo, diciamo, romano, che viene stampato e quindi creato dall'incisore di caratteri Francesco Griffo. E poi sempre grazie alla collaborazione tra Bembo, Manuzio e Griffo, questa virgola entra nell'edizione a stampa del Petrarca del 1501 e del e mi sa che era il Vita Nova di Dante. Del signor Dante. Del 1502. E vabbè, a parte qualche eccezione, qui stiamo parlando più dal punto di vista del significato, di Aldo Manuzio il giovane, quindi non quello che ha messo a stampa la forma moderna della virgola, che appunto attribuisce alla virgola una funzione distintiva dal punto di vista grammaticale e semantico. In generale, nella trattatistica cinquecentesca ricorre a una definizione che sfrutta essenzialmente il ruolo orale della punteggiatura, quindi a livello di lettura. E vedi, sono rimasti un po' indietro. Le maestre sono rimaste indietro. Sì. Che tende a identificare la virgola con un segnale per fermarsi e riprendere fiato durante la lettura. Sì, come se un libro fosse una spirometria. Esatto. Allora tu hai bisogno. Come se un tedesco riuscisse a leggere bene in italiano perché c'è la punteggiatura. Sicuramente. No? Va bene, allora facciamo sentire un pezzo, che ne dici? Che non è la polca della... Come no? Oh! Vabbè, allora beccati questo. Peccato, lui... perché ci stava proprio bene. Ma senti una bella questa polchettina. Senti questa come ci sta. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Non conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vattene. Non ridere, non conosci l'educazione. Il mitico Piero Ciampi con Adius era una versione dal vivo, si sentiva anche all'inizio il rumore dei fogli che stava, che scorreva con le mani. Ed è una canzone abbastanza, secondo me, in tema con la puntata di oggi, perché siamo fumantine quando qualcuno pecca dal punto di vista dell'educazione ortografica, perché fondamentalmente l'ortografia, la punteggiatura fa parte, insomma, dell'ortografia, ecco, e non solo. Invece sai a me che rumore piace sentire in radio? Questo. Vero. Della matitina che scrive, prende appunti durante una trasmissione. Si sente sempre nelle rassegne stampa del mattino. Di Radio 3 la mattina alle 6:30. E allora senti questa matita che prende appunti, il rumore della carta del giornale, che meraviglia. E anche il giornalista che puntualmente fa. Sì, questo anche, sì, è vero, verissimo. Oppure sta bevendo il caffè, che quindi... bello. Come qualcuno in questa regia che beve. Che... vedrai, sì. Non posso mica seccarmi. Ma certo. Bene, andiamo oppure avanti. Oppure il giornalista che sente il commento dell'indignato di turno e fa... che sono giornalisti questi, non sono diciamo, non presentatori. Sono mica dei fessacchiotti. Un saluto alla nazione. Oddio, vi ho spaccato le orecchie. E anche il cuore anche con questa affermazione. Vabbè, e a bandiere a parte. Bandiere a parte, io direi di continuare. Degli usi. Un saluto alla nazione, perché anche loro, in quanto a refusi, certo, andrebbero veramente pigliati a calci nel la, culo. La fazione. La fazione, esatto. Cioè, poi nel refuso è... C'è tutto. Come dire, la punta dell'iceberg. Allora, vi abbiamo fatto un po' un quadro, no? Della nascita della virgola. Che sono diventata di Pisa. De. Improvvisamente Labronica o giù di lì. Era più pisano questo. Sì, che... Facciamo un po' di excursus sugli usi letterari della virgola. Preparatevi, mettete il sospensorio, che questa è veramente lunga. Lilla Daniela ha capito. Non me la metti una pulchina? Silenzio. Eccola. Arriva. No, non posso sentire la mia polca di sottofondo. Come dire, non posso parlarvi degli usi letterari, anche perché sarà un elenco continuo di... Oh, evviva! In seguito al progressivo modificarsi... Come riparti alla grande? Ora, anche tu hai una dipendenza da polca. Mai più senza. No! Sta buona. In seguito al progressivo modificarsi del sistema interpuntivo, dalla metà del Settecento si ebbe, tra gli altri fenomeni, una crescente riduzione dell'uso della virgola, che in precedenza occorreva obbligatoriamente prima di ogni congiunzione e di ogni subordinata. Vabbè, sulla subordinata, ok. Ma insomma, nel senso. Ma anche sulla congiunzione. Sì, ripeto, sì, sì, nel sì, caso... sì. Sì, qua ci sono i blackout del cavo. Compresa la frase relativa di tipo limitativo, dopo la vediamo. Allora, ci sono tantissimi nomi che andremo a citarvi che non vi diranno assolutamente nulla, perché non lo dicono nemmeno a noi. Noi non siamo i rivali, l'Accademia della Crusca. Però c'è tale Orazio Lombardelli che scrisse il trattato Arte del puntare agli scritti del 1585 e ne aveva reso, di questa virgola, l'uso sistematico, l'uso, come dice lui, automaticamente a separare persino congiunzioni a verbi composti col che, di maniera che, perciò che, posto che, anziché e, molto spesso, costituenti di frasi strettamente coesi come soggetto e predicato o predicato e complementi diretti o indiretti addirittura. Che cioè, proprio una virgola ovunque. Questa è una cosa che si in realtà ripete molto nello spagnolo corretto. A differenza degli italiani, gli spagnoli, adesso non voglio parlare magari delle ultime generazioni, ma gli spagnoli che hanno più o meno la nostra età, che non vi sveleremo, più grandi o anche un pelettino più piccini, sono molto attenti nell'uso della punteggiatura. Beh, un pochino più piccini, sono proprio pischelli, però. Sì, certo. E loro utilizzano davvero la subordinazione compresa tra due virgole, come dovrebbe essere normalmente. Che ne vogliono dire, soprattutto i fan della scrittura del web. Vabbè, quello però non fa la semplificazione adesso. Assoluta di tutto il linguaggio. Io non sono d'accordo, perché il web... non è legato a un'interpretazione, è legato magari ai tempi più ristretti che le persone hanno, ma insomma è una questione che riaffronteremo sicuramente più avanti. Dopo il Lombardelli, tale Daniello Bartoli, nel Trattato dell'Ortografia Italiana, siamo circa 100 anni dopo, parlavamo prima del 1585, ora siamo nel 1670, aveva, secondo l'enciclopedia... Quale? Treccani aveva espresso insofferenza nei confronti dell'uso eccessivo della virgola, salvo poi ovviamente uniformarsi alla consuetudine dei contemporanei. E va avanti così la storia fino all'Ottocento, quando la virgola viene soggetta a usi oscillanti e stilisticamente diversi, perché molte delle norme che attualmente regolano l'impiego della virgola erano ancora in via di assestamento. Perché? Perché la lingua italiana a quell'epoca si stava evolvendo, si stava forse formando, stava diventando un mezzo comune, per cui anche l'uso della punteggiatura, dell'interiezione era ovviamente... Ho detto interiezione, mi sono sbagliata tantissimo perché stavo pensando alla polca. No, ma io in realtà sto ridendo perché è troppo bella questa polca e quindi sono attratta da questo suono. Io ho detto interiezione al posto dell'interpunzione. In realtà non ti sto più ascoltando da un quarto d'ora, sto ascoltando soltanto la polca. Cattivi. Ma sì, attenzione. Ha questo potere su di me. Mannaggia. Cosa ci siamo perse? No, niente, è che... niente, e semplicemente che arriva l'Ottocento e c'è anche il Manzoni all'Ottocento, ragazzi. Ma allora facciamo partire un pezzo, che ne dici? Sì. Fermiamo un attimo tutte mi fai le bocche sentire... del mondo e ti faccio sentire qualcosa la mia amica, di interessante. La mia amica Genesis. Ora sentirai. Io ritorno accanto a voi, mes amis, mes copains, e se un giorno vi lasciai, fu perché mi innamorai, mi sorrise, vi scordai, mes amis, mes copains, io vedevo solo lui, e capivo più niente e non sapevo che gli ero indifferente. Riprendetemi con voi, mes amis, mes copains. Riprendetemi con voi insieme. Ma se un giorno vi lasciai, fu perché mi innamorai, mes amis, mes copains, mes amis, mes copains. Oh, eccoci qui di nuovo. Bel pezzettino che abbiamo fatto sentire e parlavamo di Manzoni. Cosa iniziamo così proprio boom boom boom boom boom? Sarà questa polca così accelerata con tutte queste sincopi sì, sotto sì. Che ci fa l'effetto delle droghe sintetiche del cocorico praticamente. Del coccodrillo. Il coccodrillo. Alessandro Manzoni, oltre al modello del linguaggio italiano all'interno dei Promessi Sposi, ci porta anche un esempio di interpunzione analitica, proprio in tutta l'opera, in tutta l'opera dei Promessi Sposi. E, tra le due edizioni, dalla prima alla seconda, che ovviamente lui ha rimaneggiato perché era ancora in vita, ha aggiunto virgole in sovrabbondanza, determinando uno stile analitico vero e proprio all'interno del romanzo. Poi tanto tra un pochino lo rivediamo perché vi porteremo qualche esempio. E invece, 100 anni dopo, no, un po' di meno, molti meno, 100 anni dopo no, però insomma, Al contrario, Gabriele D'Annunzio, nelle sue famosissime, che non le ha mai lette, Le faville del maglio. Vabbè, che cazzo è? finto. Un film di Bruno Liegi, Baston Liegi. Sì. Esprime tutta la sua insofferenza nei confronti di questo segno interpuntivo. Costrutto molto virgolato e costrutto molto bacato. Che burlone. Molto D'Annunzio, davvero. Sì. Alle troppe virgole si riconosce che la locuzione è marcescente, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti, va, dai. Mamma mia. Si va comunque, insomma, uniforme. Che dopo Varicco avrei qualcosa da dire anche su D'Annunzio. Ve lo spieghiamo. Vabbè. Noi abbiamo detto, anzi, no, ormai ogni promessa è debito. Io la settimana scorsa mi sono sbilanciata particolarmente, dandovi insomma notizia del mio odio condiviso con la Nenia per Baricco. Lo trovo appunto in termini di ridondanza abbastanza anche ridondante, un po' pedante, pedantone, e soprattutto non mi piace molto il progetto della scuola Holden. Vabbè, quello da parte, chiaro, anche quello sì, ci sta, visti i tempi di marcescenza, sì, come direbbe D'Annunzio, dell'editoria, esatto. Purtroppo dei libri al macero ormai. Lo sapevo. Venerdì sera, non posso durante le nostre uscite nulla, brave, non che posso, durano fino alle 11, non posso spifferare più niente. Mantenere i segreti è come il segreto di Pulcinella, il segreto del Wombat. Non sai mantenere i segreti. Odia un altro scrittore. E lì ci siamo trovati allora, un po' di disaccordo. D'ora in poi parleremo di gossip, di rossetti, di colori dei capelli, è chiaro. Di Mariah Carey. E Mariah Curry. Mariah Curry. Lo capirete nella puntata di Natale. Questa. Ecco. Guarda, già delle anticipazioni. Andiamo avanti, non puoi spifferare tutto. Allora non ve lo dice, Non vuole proprio dire. No, se vuoi dillo tu. Io non me la sento. Tabucchi. Io non sono così. Tabucchi è bellino per me. Invece, dai, via. Quindi dicevamo: assenza di virgole, moda, qualche cosa che comunque con il passare tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento si afferma. L'assenza di virgole venne sfruttata ai fini espressivi della letteratura novecentesca. Ad esempio Carducci sappiamo che aveva già soppresso la virgola nelle serie numerative. Un espediente insomma che poi si ritrova anche nella prosa invece del già suddetto D'Annunzio, per esempio Trionfo della morte, che questa è un'opera che conoscevo in realtà. E in poesia del Novecento, come per esempio Pascoli, e grave mi incuora, senza la virgola dopo grave, fino alla narrativa contemporanea, vabbè, del mitico Calvino, che ovviamente lui se lo poteva anche permettere, Ticon Zero per esempio, che bello, e fino alla più recente di Andrea De Carlo, che sinceramente conosco pochissimo, Treno di Panna. No, Susanna Tamaro. Tamaro, Treno di Panna, Cuore di Panna. Sì. Treno di Panna. Susannina. E prenderlo per il colletto, sbatterlo contro la parete di roccia, dargli una ginocchiata bassa, strapparlo in avanti per un braccio, farlo ruzzolare fino in mare. Questo è lui. Effettivamente però regge, ma è Sì, hai fatto anche un'interpretazione un po' curata. Come faceva la mia maestra Zelima all'elementare. Un saluto. Quando dici maestra, io ti devo far ascoltare un pezzo musicale, quasi musicale. Sì, perché la Nenia... Toppiamo il tutto, ora apri le orecchie. Vai! Thank you. sempre più. Io prego e pregherò perché tu vada via. Dalla mia realtà, dalla mia fantasia. E brucerò di te ogni fotografia. Eccoci. Io penso, no, sì, come al solito, problemi con il... Parla tu per me, Neni. Eccoci, sì, sì, io ci sono. Tu vivo e lotta insieme a noi. Ma il microfono... Forse, ma non è detto. Oh. Benissimo, eccoci, siamo tornate. Allora, io ti interrompo, non se- io sono tornata. La povera Nina, no, ha delle cose da sbrigare alla posta. Ragazzi, è andata a pagare un bollettino. Regalateci un microfono nuovo. Sì, dai. Scrivete il vostro IBAN dal quale potremo spillare dei soldini. Oh. Apposta wombat@insiberia.net. Ne approfitto per iniziare a dare i nostri contatti. Facebook, l'abbiamo già detto forse all'inizio, ma lo ripetiamo per chi comunque apprezza questo strumento. facebook.com radio-wombat-firenze, twitter.com/radio-wombat-fi. Il sito ormai lo conoscete perché ovviamente siete qui ad ascoltarci in diretta, ma volendo ci riascolterete anche in replica sabato e domenica. Per gli orari vi consiglio di andare a controllare il nostro palinsesto aggiornatissimo nel sito, sempre wombat.noblogs.org. E che dire, io intanto vi direi che questo... Tanto meno mi si sente. Sì, sì, ma si sente ormai. Che questi 3 giorni di riposo sono... Sono spuntate diverse cose in città. Come i funghi. Come i funghetti, sì. Allora abbiamo venerdì 8 dicembre, domani Santissima Madonnina. Santissimissima, come sempre. Ma non diciamo la voce troppo alta perché altrimenti poi avremo sempre problemi tecnici e poi vatti a lamentare. Ecco. Allora, venerdì 8 dicembre al Camillo... serata a sostegno di Firenze antifascista, 21:30, presentazione di Storia di Ordine Nuovo di Elia Rosati. È molto carino questo documentario, io vi consiglio di andarlo a vedere. Già visto, giusto? Brava, brava, ecco, bene, stai sempre sul pezzo. Certo. E abbiamo poi una serata di hip hop antifascista con tantissimi nomi interessanti, ma non ve li sto a elencare perché tanto siete gente super super dinamica, sapete andarvela a cercare. Sapete tutto, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi abbiamo sabato 9 dicembre dicembre al Next Emerson, festa benefit della Palestra Popolare, e abbiamo stage di pugilato aperto a tutti dalle 17 alle 18, poi dimostrazioni di pugilato un'ora, alternato. Ma è sufficiente. Sì, sì, sì, botte da Orbi. Poi abbiamo dimostrazioni di pugilato alternato con battle di breakers, che vede breakers fiorentini contro pisani. Cioè, wow, io non lo so, ma non potete perderlo, no, non dai. Si può. Poi abbiamo uno spettacolo di cabaret durante la pericena, pensa, capolavoro. E a seguire musica, festa, birra e spettacolo pirotecnico. Quindi venite con una felpina che non sia in pile 100%, grazie. Non si sa mai. Gli estintori so che ci sono, perché ho visto tanti cartelli in giro, ma meglio evitare grandi esatto. rischi. Bene, scrivete sicuramente... anche a postawombat@insiberia.net se il mio microfono si sente ecco, o no. Grazie, fateci. Abbiamo bisogno di feedback, possibilmente positivi. Abbiamo un ospite in regia che anche lui sta facendo una faccia molto perplessa provando uno strumentino. Quindi, l'ho visto. È così. C'è il triangolo delle Bermuda della radio. Wombat è così. E poi mi dicono qui, con degli occhiacci e delle faccette, che anche venerdì 8 dicembre, oltre alla serata al Camillo, c'è anche una serata al Next Emerson. Ci vedete, ragazzi, attivissimi. Sì, del nuovo collettivo, però di più non vi so dire, quindi andate nel sito, andate su Facebook e arrangiatevi un pochino anche da soli, ecco. Perché noi ci siamo, ma non possiamo sempre essere... Non siamo mica la mamma. Esatto. O la nonna, ancora peggio. Ecco. Quindi, detto ciò, sono le 20:27, come dice il mio orologio della super diretta. Qui sarebbe rimasta una virgola seriale, la virgola che prechiude, la virgola testuale, ma per stasera vi lasciamo andare. Sei sicura? Sì, c'è. Diciamo soltanto che... Insomma, avvicinandosi alla contemporaneità, le scelte interpuntive diventano una questione di stile, addirittura poetica. Vi ricordate nella puntata scorsa quando abbiamo letto il libero pensiero di quel tale del forum, che era un qualche cosa di... insomma... Scusa, molto... ma io devo ripartire anche con la polpa, non ti posso lasciare così. E quindi, insomma, sacrifichiamo il pezzo finale per questa sì, mia dai. Postilla. E quindi nella narrativa contemporanea c'è un quadro di una semplificazione generale della sintassi, e di conseguenza si semplifica anche l'interpunzione, diventa più facile e si registrano diventa più facile. In che senso? Mi piace. E si registra un indebolimento di quelle che si chiamano giunture tra i periodi, le frasi più banalmente. E vengono sostituiti i segni di interpunzione forti, il punto e virgola o i due punti, con la virgola e basta. A parte la fine del paragrafo che sancisce proprio la fine del libro, la fine del saggio, la fine del mondo, probabilmente. Mettiamo un punto sullo stretto di Gibilterra, che tanto lo sanno tutti che la terra è piatta. I terrapiattisti. Esatto, un saluto agli amici terrapiattisti. Quindi, insomma, abbiamo poi tre funzioni diverse di questa virgola, che è seriale, cioè che ha un discorso un po' lunghino, non so se farvelo. Vedo che questa polca ti distrae. Sì, come sempre. Insomma, seriale indica, ecco, per farvela semplice, indica un elenco o una serie. La sì. virgola che apre e chiude, invece, è, come dice il nome stesso, permette di estrarre, di spostare o di inserire un elemento in una catena sintattica, quindi è, diciamo, una sorta di sostituzione dell'inciso. Esatto, brava. Poi indica un'identità di referente, quindi qui si parla di cose proprio da analisi logica. È un po' più da, e del periodo. Sintagma nominale e apposizione. La virgola diventa un segnale di coreferenza, cioè indica che ciò che sta a sinistra della frase o all'interno della frase, ciò che sta a destra della frase, sono co-riferiti. Quindi, insomma, come potrebbe essere il sintagma nominale con la sua posizione. La nenia mi sta guardando con gli occhi a cuoricino. E andiamo Brava, avanti, che c'è l'ultima. Quindi in frasi marcate tutto questo, e poi abbiamo la virgola testuale, che a seconda della modalità in cui si trova all'interno del capoverso questa polca mi manderà fuori di testa. Si declina in tre tipi principali. Lo sto facendo apposta. Che è difficilissima questa cosa. Voglio vederti fuori di te. Virgola comunicativa. Dovresti riposarti, Nenia, virgola, perché mi sembri pallida. Punto. E questa non è altro da aggiungere. Unità comunicativa ed è una sorta di quasi una sorta di dichiarativa. Voglio vedere l'albero scritto nella pagina dell'articolo del sito di Wombat di questa frase. Bene, ragazzi, stasera è tutto. Lo vuoi ad albero o a parentesi? Parentesi. Quadre? Io agli alberi, ah, sì? Lo devo ammettere, non ci capisco un cazzo. Io invece prediligo l'albero. Sì. Che perfetto, non... guarda, siamo veramente ebony and ivory. Complementari. Perfetto, sì. Poi vabbè, io la finirei qui perché ci sarebbero tutti gli esempi da fare di questa diciamo serie di uso della virgola testuale per farvi capire meglio, ma è effettivamente un discorso a parte, ci vorrebbe una puntata solo per questo. Oibò. Oibò. O tu guarda di che si parlerà giovedì prossimo. Oh, guarda un po'. Bene, la puntata allora è pronta. Non leggete Marie Claire? Oddio. Dio no, per non favore. Non leggete Marie Claire, no, vi spiegheremo no. Nelle prossime puntate, sì. Forse. Per Natale arriveremo con una puntata che cattivissima. Che schifo. Povertà. Povertà. È la povertà davvero. Totale. Davvero. Bene. Meglio stare in a coda Natale 4 ore a Natale non siamo tutti tipili. Più buoni. Sappiatelo, anzi, saremo... perfide. Basta. Detto ciò, giovedì prossimo. Saluti, qui. Baci, abbracci e buona trasmissione. Strizzi di mano e pacchi sulle spalle. Sì, esatto. Sgambetti anche. A chi arriva dopo di noi a 8 Hertz. E, che stasera puntatona. Sì, sì, sì. Un super XXX. Live. Super live. Live, live. L'ospite della puntata sta cercando Belli. Di sabotarci. Il mix. Sì, sì, sì, vediamo. No, no, hai in mano la nostra mitica agenda, nuova addirittura del 2018. Sì. Bella linda. Sì, una bella scarceranda del 2018, guarda. E non vi svegliamo nient'altro, capirete rimanendo sintonizzati su questo streaming perché qui siamo. Qui siamo. Siamo super etere e anzi oltre l'etere. Siamo particelle, oltretutto. Sono fasci di e basta. Fermiamoci qui. Non leggete Marie Claire. Ecco, oppure grazie. Se volete andate a cercare Marie Claire e quest'ultima voi signorine parolina. Di sinistra trasandate che fumate le canne. Esatto. Ma dai, ma che stereotipi hanno e soprattutto cervello. Occhio alle mamme e no, ai papà vabbè. Di sinistra perché no, poi dopo vi no, trovate no. Le figlie stop, fasce. Stop, ecco. Stop, ho bisogno di 3 giorni di riposo e poi se ne riparla. Andate grazie. A leggere Marie Claire, cercate un riferimento oh, a quello che abbiamo appena detto. Indignatevi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. A presto. Addio. Forse non mai mi più. Metto nemmeno il pezzo a finale. Mai più. A mai più. Ciao. Ciao.